Ad alta voce, Elia Shilton legge Il soccombente di Thomas Bernard. Solo tre giorni dopo che Wertheimer si era impiccato, mi venne in mente che anche lui, come Glenn, era arrivato a 51 anni. Dopo aver superato la soglia dei 50 anni, ci sentiamo infami e senza carattere, pensai. Si tratta di vedere per quanto tempo ancora riusciremo a sopportare un simile stato. Molti si uccidono nel corso del loro 50° anno, pensai. Molti anche nel 52°, ma di più nel 51°. Non importa se nel corso del 51° anno si tolgono la vita o se muoiono, come si suol dire, di morte naturale. Fa lo stesso che muoiano come Glenn o come Wertheimer. La vergogna che prova il cinquantenne per aver varcato la soglia dei 50 anni è molto spesso la causa di tutto. Perché 50 anni sono veramente abbastanza, pensai. Se superati i 50 anni continuiamo a vivere, continuiamo a esistere, ci sembra di essere infami. Già è da vigliacchi varcare quella soglia, pensai, e ci sentiamo doppiamente meschini se i 50 anni li abbiamo ormai dietro le spalle. Adesso sono io lo spudorato. Invidiai i morti. Per un attimo li odiai a causa della loro superiorità. Considerai completamente assurdo il fatto di essermi recato a Traich per pura curiosità, il motivo più banale che ci sia, e in piedi nella locanda e detestando quella locanda, detestai profondamente soprattutto me stesso. E chissà, pensai, se qualcuno mi lascerà entrare nel casino di caccia, perché senza dubbio i nuovi proprietari del casino di caccia sono già lì da un bel po' e non ricevono nessuno, e men che meno vorranno ricevere me. Lo so che gli sono sempre stato odioso, perché Wertheimer, parlandomi dei suoi parenti, me li ha sempre descritti in modo tale da farmi supporre che quelli mi odiassero esattamente come odiavano lui, e adesso mi avrebbero visto, probabilmente di buon diritto, come l'intruso più insolente che si possa immaginare. Sarei dovuto tornare a Madrid con un aereo, pensai, e mai avrei dovuto intraprendere questo viaggio totalmente inutile fino a Traich. Mi sono cacciato in una situazione avvilente, pensai. Ad un tratto mi parve una specie di rapina ai danni di un cadavere quello che avevo in mente di fare. Volevo infatti visitare a fondo il casino di caccia, entrare in tutte le stanze di quel casino di caccia, badando solamente a non tralasciare nulla e a farmi le mie idee su tutto. Sono un essere atroce, pensai, disgustoso e ripugnante, e intanto volevo chiamare la padrona della locanda, che però all'ultimo momento non chiamai. Ad un tratto ebbi anzi il timore che arrivasse troppo presto per i miei scopi, e che di colpo troncasse il flusso dei miei pensieri, annientasse dunque ciò che qui ad un tratto avevo pensato, le divagazioni su Glenn e Wertheimer che ad un tratto mi ero concesso. In effetti avevo avuto l'intenzione, che ho tuttora, di prendere visione degli scritti eventualmente lasciati da Wertheimer. Wertheimer parlava spesso di scritti da lui redatti nel corso del tempo. Tutte cose insensate, diceva, ma Wertheimer era anche un ambizioso, il che mi faceva supporre che queste cose insensate avessero un certo valore, e comunque, pensai, sono pensieri di Wertheimer che vale la pena di conservare, di raccogliere, di salvare, di ordinare. E già mi vedevo davanti un gran mucchio di quaderni e schede di contenuto più o meno matematico-filosofico. Ma certo, questi quaderni e schede, tutti questi scritti e schede, non saranno i suoi eredi a tirarli fuori, pensai. Quelli nel casino di caccia neanche mi lasceranno entrare. Mi domanderanno chi sono e non appena io dirò chi sono, mi sbatteranno la porta sulla faccia. La fama che mi porto dietro è talmente spaventosa che certo li indurrà a sbattermi e a chiudermi la porta in faccia, pensai. Questa folle idea di visitare il casino di caccia mi era già venuta a Madrid. Siccome, pensai, è probabile che Wertheimer non abbia parlato con nessuno se non con me dei suoi scritti e delle sue schede e che li abbia nascosti da qualche parte, io ho un preciso dovere nei suoi confronti, il dovere di rintracciarli e conservarli ad ogni costo. Di Glenn non è veramente rimasto niente. Glenn non ha mai scritto un appunto, pensai, mentre Wertheimer, al contrario di Glenn, ha scritto ininterrottamente per anni, per decenni. Soprattutto su Glenn troverò varie cose interessanti, pensai, ora questo, ora quello, e comunque più volte troverò qualche cosa su noi tre, sull'epoca dei nostri studi, sui nostri maestri, sul nostro sviluppo e sull'evoluzione del mondo intero. Così pensai, in piedi nella locanda, mentre guardavo dalla finestra della cucina, oltre la quale però non si vedeva niente, perché i vetri delle finestre erano neri di sporcizia. In questa lurida cucina si fa da mangiare, pensai. Da questa lurida cucina escono le pietanze che vengono portate ai clienti nelle sale da pranzo, pensai. In Austria le locande sono tutte sporche, luride e davvero disgustose, pensai. È raro che in una di queste locande si riesca ad avere sul tavolo una tovaglia pulita, per non parlare di un tovagliolo di stoffa, che in Svizzera è dovunque assolutamente usuale. In Svizzera la più piccola locanda è pulita e gradevole, mentre da noi in Austria perfino gli alberghi sono sporchi e disgustosi, per non parlare di quel che c'è nelle stanze, pensai. Spesso ci si limita a dare una stirata alle lenzuola già usate da un cliente quando sta per arrivarne un altro, che non di rado trova nel lavandino ciuffi di capelli del suo predecessore. Le locande austriache mi hanno sempre fatto schifo, pensai. Le stoviglie non sono pulite, a guardar bene, quasi sempre le posate sono sporche. Eppure Wertheimer andava molto spesso a mangiare in questa locanda. Almeno una volta al giorno voglio vedere qualcuno, diceva, magari anche soltanto questa lurida, sciatta e trasandata padrona della locanda. Sicché io mi sposto da una gabbia all'altra, così disse una volta Wertheimer. Dalla casa del Kohlmarkt vado a Traich per poi tornare indietro, così disse, pensai. Passo dalla disastrosa gabbia metropolitana alla disastrosa gabbia boschiva. Mi rintano ora in un posto, ora nell'altro, ora nel pervertimento del Kohlmarkt, ora nel pervertimento del bosco in aperta campagna. Sguscio via da una gabbia per infilarmi di soppiato nell'altra, vita natural durante. Ma a questo processo mi sono abituato a tal punto che non riesco assolutamente più a immaginarne un altro, diceva. Glenn si è rinchiuso nella sua gabbia americana, io nella mia gabbia dell'Alta Austria, diceva Wertheimer, pensai. Lui con la sua megalomania, io con la mia disperazione. Tutti e tre, diceva, con la nostra disperazione, pensai. Ho raccontato a Glenn, disse Wertheimer, del nostro casino di caccia e sono convinto che proprio il mio racconto lo abbia indotto a farsi costruire una casa nel bosco. Il suo studio, l'ingranaggio della sua disperazione, così disse una volta Wertheimer, pensai. L'idea di farsi costruire in mezzo al bosco, segregata da tutti, chilometri e chilometri lontana da tutto, una casa con uno studio per far musica, è una tale pazzia che può venire in mente soltanto a un pazzo, a un folle, così Wertheimer. Io non avevo certo bisogno di costruirmi uno studio di disperazione. L'avevo già a Trai, disse. Ho ereditato questa proprietà da mio padre, che ha resistito qui per anni e anni da solo, con meno smorfie e querimonie di me, in modo meno pietoso e meno ridicolo di me, così disse Wertheimer una volta. Abbiamo una sorella che per noi è ideale, la quale ci abbandona nel momento peggiore senza farsi il minimo scrupolo, così disse Wertheimer. Se ne va in Svizzera, dove tutto è fatiscente. La Svizzera è fra tutti i paesi d'Europa il più privo di carattere, disse. In Svizzera ho sempre avuto la sensazione di trovarmi in un bordello. In Svizzera c'è dissoluzione dappertutto, in città come in campagna, disse. St. Moritz, Saas-Fee, Gstaad sono tutte case chiuse, per non parlare di Zurigo e Basilea, bordelli di fama mondiale. Wertheimer lo disse varie volte, nient'altro che bordelli di fama mondiale. Coira, quella tetra città nella quale ancora oggi l'arcivescovo veglia su tutti quanti da mane a sera, esclamò. E proprio lì doveva andare mia sorella, scappando via da me, il suo crudele fratello, l'uomo che ha distrutto la sua vita, ha annientato la sua esistenza. Così disse Wertheimer, pensai. Se n'è andata a Zizers, dove il fetore del cattolicesimo arriva fino al cielo. La morte di Glenn mi colpisce assai profondamente. Di nuovo, ora, lo sentivo pronunciare con chiarezza queste parole mentre ero in piedi nella sala da pranzo della locanda, sempre nello stesso posto, solo che nel frattempo avevo posato la mia borsa sul pavimento. Wertheimer non poteva far altro che togliersi la vita, mi dissi. Ormai non aveva più futuro. Wertheimer si era vissuto fino in fondo, la sua esistenza era giunta allo stremo. Mi si adatta a pennello aver dormito con la padrona della locanda nella casa di lei, pensai, e guardai il soffitto della sala da pranzo, supponendo che proprio sopra la sala da pranzo quei due si fossero accoppiati nel letto della padrona della locanda. Il superesteta in quell'orrido letto, pensai, un uomo dalla squisita sensibilità che ha sempre pensato di poter vivere soltanto con Schopenhauer, Kant e Spinoza e che ogni tanto, a intervalli più o meno ravvicinati, giaceva con la padrona della locanda di Van Kamp sotto una rozza trapunta di piume di gallina. Non potei fare a meno di ridere forte, ma poi mi sentii disgustato. Comunque la mia risata non l'aveva sentita nessuno. La padrona della locanda continuava a non farsi vedere. Più guardavo la sala della locanda, più mi sembrava sporca e la locanda nel suo insieme sempre più impossibile. Ma non avevo altra scelta, nella zona non c'era e non c'è che questa locanda. Glenn, pensai, non ha mai suonato Chopin. Ha respinto tutti gli inviti, tutte le più alte onorificenze. Dissuadeva di continuo tutti quanti dall'idea che lui fosse un uomo infelice. Era anzi il più felice, il più fortunato degli uomini. Musica, invasamento, setti di gloria, Glenn, avevo annotato una volta nel mio primo quaderno scritto a Madrid. Quella gente alla Puerta del Sol che ho descritto a Glenn in una lettera del 1963 dopo aver scoperto Hardy. La descrizione della corrida, le mie meditazioni nel parco del Buen Retiro, pensai, tutte cose che Glenn non mi ha mai confermato di aver ricevuto. Spesso Wertheimer ha invitato Glenn a Traich. Wertheimer pensava che il casino di caccia dovesse piacergli, ma Glenn non ha mai accettato i suoi inviti. Già Wertheimer non era un tipo da casino di caccia, figurarsi Glenn Gould. Horowitz non era un matematico come lo è stato Glenn Gould. È stato. Noi diciamo egli è, poi a un tratto egli era e quell'atroce è stato, pensai. Wertheimer interloquiva sempre quando io dichiaravo qualcosa, per esempio su Schoenberg. Glenn non lo ha mai fatto. Wertheimer non tollerava che un altro ne sapesse più di lui. Non sopportava che un altro si diffondesse su argomenti di cui lui non era in grado di saperne nulla. Vergogna della propria ignoranza, pensai in piedi nella locanda mentre aspettavo che arrivasse la padrona. D'altronde tra noi il lettore era Wertheimer, non Glenn e neanch'io. Io non leggevo moltissimo e se mai lo facevo erano sempre le stesse cose, gli stessi libri degli stessi autori. E di continuo gli stessi filosofi, come se ogni volta fossero del tutto diversi. Avevo sviluppato una grande abilità nell'assimilare di continuo le stesse cose, come se ogni volta fossero del tutto diverse. Questa abilità l'avevo affinata moltissimo, in maniera fantastica. Né Wertheimer né Glenn avevano questo privilegio. Glenn non leggeva quasi niente, detestava la letteratura, il che gli si adattava benissimo. «Faccio solo ciò che serve al mio vero scopo», disse una volta, «ciò che serve alla mia arte». Di Bach aveva tutto in testa, e così pure di Handel, moltissimo di Mozart, tutto anche di Bartók. Poteva sedersi al pianoforte e andare avanti ore e ore a interpretare, come diceva Glenn stesso, e le sue interpretazioni erano ineccepibili, spontaneamente Glenn geniali, per usare un termine caro a Wertheimer. In fondo, quando ho incontrato Glenn per la prima volta sul Mönchsberg, mi è stato chiaro fin dal primo istante che si trattava dell'uomo più straordinario che io abbia conosciuto in tutta la mia vita, pensai. Come esperto in fisionomica, non sbaglio mai. Dopo anni e anni è arrivata, per così dire, la conferma del mondo, che per me tuttavia è stata imbarazzante come qualsiasi conferma espressa dai giornali. «Noi siamo come siamo, non abbiamo altra scelta», così disse Glenn una volta. «L'insensatezza che sopportiamo è totale», disse inoltre, pensai. Anche la morte di Wertheimer era stata prevedibile, pensai. Ma stranamente Wertheimer parlava di continuo del fatto che io mi sarei tolto la vita, che mi sarei impiccato nel bosco, nel tuo amato parco del Retiro, ha detto una volta, pensai. Che io sia sparito per andare a Madrid, che me la sia svignata senza dire niente a nessuno e lasciando in Austria tutto ciò che avevo, Wertheimer non me lo ha perdonato. Si era abituato al fatto che io camminassi con lui su e giù per Vienna per anni e anni, un intero decennio, anche se in verità ho percorso le sue strade, non le mie, pensai. Nel camminare era sempre stato più veloce di me, io riuscivo a stargli dietro solamente a fatica, benché il malato fosse lui e non io. Ma proprio perché il malato era lui, camminava sempre avanti, pensai. Fin da principio mi aveva sempre lasciato indietro. Chiamarlo il soccombente è stata una geniale invenzione di Glenn Gould, pensai. Glenn ha capito Wertheimer fin dal primo istante. Glenn ha capito a fondo, fin dalla prima volta, tutte le persone che ha conosciuto. Wertheimer si alzava alle 5 del mattino, io alle 5 e mezzo. Glenn invece si è sempre alzato solo alle 9 e mezzo, poiché si coricava verso le 4 del mattino, non per dormire così Glenn, ma solo per spegnere la spossatezza. Mentre mi guardavo intorno nella sala della locanda, pensai di togliermi la vita, perché ormai Glenn è morto e Wertheimer si è tolto la vita, pensai. Anche Glenn aveva sempre temuto l'umidità delle osterie austriache. Aveva paura di prendersi una malattia mortale in queste osterie austriache che sono sempre così mal arieggiate o addirittura non lo sono affatto. In realtà nelle nostre osterie molti avventori si prendono una malattia mortale. Gli osti non aprono le finestre neppure d'estate, così l'umidità può annidarsi nei muri per sempre. E c'è una nuova forma di cattivo gusto che si sta diffondendo dappertutto, la totale proletarizzazione delle nostre locande, anche delle più belle, pensai, che procede imperterrita. Non esiste parola che mi disgusti di più della parola socialismo quando penso allo scempio che è stato fatto di questo concetto. Lo si trova dovunque questo infame socialismo dei nostri infami socialisti, i quali usano il socialismo contro il popolo, quel popolo che per colpa loro con il passare del tempo è diventato turpe come loro. Dovunque oggi ci guardiamo intorno, vediamo e sentiamo questo turpe e micidiale socialismo che ha permeato di sé ogni cosa. Le stanze di questa locanda le conosco, pensai. Sono stanze portatrici di morte. Ad alta voce, Elia Shilton ha letto Il soccombente di Thomas Bernhard. A cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per ascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.